Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Nel comunicato stampa che accompagna lo studio apparso su Ceramic International è definito il materiale più resistente al calore mai creato. Si tratta di un particolare composto chimico chiamato carbonitruro di afnio. È stato messo a punto da un team di ricercatori russi dell'Università Nazionale di Scienza e Tecnologia e appartiene al vasto mondo dei materiali ceramici. In realtà il punto di fusione di questo materiale supera certamente i 4000 gradi, ma non è noto con precisione, dato che a quelle temperature non ci sono tecnologie adeguate per osservare materiali che si sciolgono, tanto che i ricercatori russi stanno ora pensando a metodologie alternative, tra cui l'utilizzo del laser per determinare appunto la temperatura limite di questo materiale. Ne parliamo con Vincenzo Sglavo, professore del Dipartimento di Ingegneria Industriale presso l'Università di Trento. Buonasera Vincenzo, bentornato. Buonasera a voi. Allora Vincenzo, spiegaci un po' meglio che cosa di preciso hanno fatto i ricercatori russi. Sì, ma la ricerca particolarmente interessante apparsa su Ceramic International, per essere precisi, non dimostra che questi ricercatori abbiano creato questo nuovo materiale dal nulla. Hanno però messo a punto un processo di sintesi delle polveri di partenza e soprattutto del consolidamento delle stesse mediante una tecnologia particolarmente innovativa detta Spark Plasma Sintering, che ha consentito per la prima volta di ottenere degli oggetti tridimensionali che possono in qualche maniera avere effettivamente un'applicazione, tenuto conto che questo specifico composto, il carbonitruro di afnio, era già noto per le sue proprietà chimiche di altissima resistenza alla temperatura e non solo, ma era stato prodotto finora semplicemente in forma di piccoli film sottili mediante tecnologie particolarmente sofisticate. Per la prima volta è stato possibile realizzare dei componenti massivi sui quali, come giustamente hai detto tu, è stata determinata una temperatura di fusione che supera di sicuro i 4000 gradi. Ecco, allora forse vale la pena che ci ricordi che cosa sono in realtà le ceramiche, perché ce ne sono poi di tipi diversi, e da dove arriva questa loro resistenza straordinaria al calore, perché tipicamente tutti ricordiamo le piastrelle dello shuttle, no? Tipicamente le ceramiche sono i materiali che resistono alle temperature più elevate. Ma sicuramente, allora per classificare un po' così, forse in maniera semplice, di cosa stiamo parlando, quando si parla di ceramica si deve identificare tutto ciò che non è un metallo e non è nemmeno un materiale polimerico o plastico. Quindi in realtà parliamo di materiali inorganici, fra i quali però possiamo identificare cose veramente molto diverse. Si parte dalle ceramiche tradizionali, quindi porcellana, terracotta, il grès, che sicuramente sono materiali relativamente resistenti al calore, ma non eccelsi. A queste aggiungiamo invece le ceramiche cosiddette avanzate, si parla per lo più di ossidi piuttosto che di carburi, il carburo di silicio, l'ossido di alluminio, la zirconia, che hanno numerosissime applicazioni, le quali debbono la loro grande resistenza alla temperatura grazie ai legami chimici particolari di particolare entità che conferisce a loro appunto questa caratteristica di resistenza al calore. Però fra queste ceramiche avanzate, per raggiungere temperature opportune per determinate applicazioni, bisogna identificare quelle che vengono chiamate le ceramiche refrattarie o i ceramici refrattari, se volete, tra i quali appunto rientra questo carbonitruro di afnio, che è uno dei composti più, diciamo così, noti, ma ai quali possiamo aggiungere altri carburi, per lo più però di zirconio, tantalio e afnio. Questi sono i tre elementi fondamentali e grazie alla presenza di carbonio piuttosto che di azoto all'interno della struttura, ecco che si riesce a fare in modo che la temperatura di fusione superi i 3000 gradi. In questo caso appunto si parla di ceramiche avanzate e refrattarie. Una nota relativamente a questi particolari e queste particolari composizioni sta nel fatto che al posto dell'ossigeno, come nella maggior parte dei materiali ceramici avanzati, particolarmente pregiati, ecco che la sostituzione dell'ossigeno con atomi di carbonio piuttosto che con atomi di azoto fa sì che aumenti anche il numero di legami che si vengono a formare, aumenta la loro forza e la loro resistenza, e questo determina appunto un incremento notevole della resistenza alla temperatura che, come dicevo, supera normalmente di ben oltre i 3000 gradi. Quali sono le applicazioni di questi materiali? Ma l'interesse di questi materiali cosiddetti ceramici refrattari è legato soprattutto alle applicazioni aerospaziali e anche all'aeronautica del futuro. Nel senso che qualora si pensi a un materiale riutilizzabile, a differenza delle piastrelle che vengono utilizzate sullo Space Shuttle, che ogni volta vanno sostituite perché si degradano, certo, ad ogni rientro, ecco, in questo caso si pensa a dei materiali che possano essere utilizzati per il fronte d'ala delle navicelle spaziali, piuttosto che degli aeroplani che possano volare oltre il Mach 5, ultrasonici, sì, 6.000 km all'ora. Ecco che lì sono dei materiali che hanno la capacità di resistere a temperature superiori ai 3000 gradi, che quindi non solo non fondano, ma abbiano anche la possibilità, visto che questi voli avvengono o oltre l'atmosfera o nella zona, diciamo, superiore della stratosfera, dove la presenza di radicali di ossigeno è particolarmente elevata, ecco che devono avere la possibilità anche di passivarsi, di proteggersi. Quindi di non ossidarsi, di non reagire fondamentalmente con l'ossigeno, no? Se ho ben capito. Ad altissima temperatura, certamente. Ecco, non sono però materiali facili da usare, se ho ben capito, è molto complicato. Sì, non sono facili da usare perché ovviamente la stessa loro grande resistenza al calore fa sì che non possa essere fusi, come si fa per esempio per i metalli, e quindi non possano essere plasmati come si fa con tanti altri materiali. L'altra problematica è che questi materiali, proprio perché così caratterizzati da legami chimici così forti, sono anche relativamente fragili, ovvero molto resistenti alla compressione, ma nel momento in cui c'è un piccolo graffio, un piccolo difetto, una scheggiatura superficiale, ecco che questi possono rompersi anche facilmente. Va bene, grazie ancora una volta Vincenzo Sglavo. Grazie a tutti voi. E allora ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani.